locale mio, dove devo fare dei ponticelli vicino al microprocessore ricevendo. Attaccato al display. Capito? Gaffa. Mi sembra che alcuni ce li ha già, però bisogna aggiungere quelli canali di su. No, non mi ricordo bene. Ehi, qui c'è scritto I per Italia, I2 Italia 34 canali, D Germania, D2 Germania, poi c'è EU Europa, EC, poi c'è la Spagna 40 canali, la Francia lo stesso 40 e poi c'è l'Inghilterra, oh, basta, non c'è altro. Ma sì, sì, è come questo qua, no? Questo qua si rispegne, lo riaccendi, tocchi il tasto dell'eco e cambi così, i codici. È fatto così questo, ma pure quello lì c'è lo stesso sistema. Uguale, mi spegnere la radio, accendere l'apparecchio per il tasto NK, prodottare la manopola channel e selezionare la banda di frequenza desiderata. Verifica per la banda, poi premere il tasto look e terminare la selezione, basta. Ciao, questo è fatto un po' diverso, ma un po' simile, dai, questo qua è un pochettino diverso. Ah, comunque siamo lì, dai. Mi fate che funzioni, a voi. Non è che funziona. C'è un altro che è abbastanza bellini, non è che... La radio, c'è una buona radio. Deve avere un microfono normale come tipo piccolino. E già va bene. Ieri ho cambiato la capsula, gli ho messo la capsula del citofono, così pompa molto di più, è molto più sensibile come cosa. Ciao. Poi a differenza di altri apparecchi che non pigliano i golpe, vanno bene per quello. Ah, quello sì, ho fatto un HM500S, è molto meglio il multi, almeno non piglia colpi nel canale a fianco. L'HM500S in casa non si può neanche ad operare, quelli sono apparecchi per la spazzatura solo. Ma sì, no, l'AVA 48 è così, quello normale, quello lì è l'AVA 48 Axel multi, quello lì va bene, è come questo Intec che ho io. Di quella genere, come quello che c'ha Natalino spesso, sono molto selettivi come apparecchi, c'è la differenza, cioè. Sì, già lo so, già vanno bene come così, come apparecchietti. Ripigliatela Mario. Io? Mario non c'è più. Cara. Giuseppe, ci sei, a me mi hanno chiamato a mangiare, bianco per me, dai. Anch'io tra due minuti devo staccare, dai, ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, dai, buon pranzo e buon tutto, dai, ci sentiamo questo pomeriggio. E dove sei, mi stai arrivando forte, sei quasi a fondo scala. In questo momento sono nella bretellina, sto per entrare alla Teloce, la bretellina di Viale Porto Torres. Cappa, già me ne sono reso conto, cioè quasi a fondo scala, sì. Vabbè, dai, a me ne ho chiamato a mangiare, dai, ce la risentiamo. Buona carica, ciao Antonio, ciao ciao. Ciao, Antonio, buona carica. Ne faccio piano anch'io, dai, che sto contando un baracchino, ci sentiamo stasera. Buon caso a tutti. Buona carica, e tu Giuseppe, spostati da sotto casa, se no te la puoi casare il biscio. Ciao Mario, sono passato vicino a casa tua, io ho visto la belva che svetta bella pompante sul tetto. Cappa cappa. No, oh, ti ho detto di scendere, non per il biscio, no. Perché sennò magari se io chiacchiero ti incendio tutto. Tranquillo Mario, Giuseppe è arrivato alla base, tra un po' si tappa. Cappa cappa, buona carica a tutti, va. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Mario, buona carica anche a te, alle prossimine, ciao ciao.